Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci comodi tuoi. Buongiorno, benvenuti. Io sono molto contenta di essere con voi oggi insieme a parlare di figli, a parlare di noi genitori, a cercare un pochino di capire quali strade prendere per evitare di fare errori. Insieme a me Alberto Pellai, come sempre. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, la puntata di oggi è nata in un modo abbastanza divertente. Insieme ad Alberto Pellai, chiacchierando sui figli e soprattutto ricordando quando noi eravamo bambini, Alberto Pellai, ispirandosi forse alle mie tante negazioni, io ero negata per diverse cose, allora mi ha detto: perché non facciamo proprio una puntata per raccontare un po' quando noi diciamo il mio bambino, il mio ragazzo proprio, non so, con le lingue non ci azzecca, piuttosto che fa fatica a giocare a pallavolo. E allora forse Alberto Pellai, ispirandosi a ciò che io gli ho raccontato di me, mi ha suggerito questa puntata e io, essendo spiritoso, ho detto: perché no? Certo, essere negati per qualche cosa è un problema non indifferente se sei bambino oppure se sei preadolescente. Prova a immaginare, tutti i tuoi compagni sono bravissimi a basket e tu invece non hai elevazione. Ecco. E quindi probabilmente vieni sempre scelto per ultimo quando devono fare le squadre oppure ti tengono in panchina. E oltre a non essere bravo a basket, probabilmente ti senti proprio un po' non solo negato in quella però cosa. Però a volte è un'opportunità, eh? Certo, perché ecco, potresti scoprire qualche cosa e diventare più bravo in qualche cos'altro. I limiti sono sempre delle opportunità, a volte. Allora, analizziamo il primo caso, poi lo commentiamo insieme ad Alberto Pellai e al nostro ospite, che non vi svelo, ma vi presento subito dopo. Mio figlio Roberto ha 8 anni. È un bambino pieno di vita e non ci ha mai dato problemi. C'è solo un piccolo problema che negli ultimi 2 mesi ha messo un po' in crisi lui e noi. A scuola stanno preparando un piccolo musical per lo spettacolo di fine anno. Ma a Roberto hanno consigliato di non fare nulla poiché è stonato come una campana. In casa nessuno ha mai avuto uno spiccato talento musicale, nessuno di noi ha mai fatto il musicista e tantomeno suonato uno strumento anche solo per passione. Però, da qui ad avere un figlio che deve stare muto quando tutti cantano nel coro della scuola, c'è una bella differenza. Si può rendere intonato un bambino stonato? In che modo? E perché uno nasce intonato ed uno stonato? O è un problema ambientale? Forse dovevamo cantare di più con nostro figlio quando era piccolo o fargli ascoltare più musica? Ci date una mano per capirne un po' di più? Ed eccoci pronti a dare una mano ce la dà sicuramente la nostra esperta. Abbiamo invitato la dottoressa Luisa Lopez, che è tornata a trovarci, bentornata. Grazie, buongiorno a tutti. Neurofisiologa responsabile scientifica del progetto Neuroscienze e Musica della Fondazione Mariani, che lavora presso la cattedra di neuropsichiatria infantile dell'Università di Roma Tor Vergata. Allora, dottoressa Lopez, che si fa? Spesso i bambini sono stonati. Io, ecco, l'unica cosa che non avevo, ero invece abbastanza intonata, suonavo anche la chitarra. Ma si può, dato che sono stata un po' lo spunto di questa puntata, allora adesso io commenterò i vari casi dicendo: questo ce l'avevo, quest'altro no. Si può rendere più intonato un bambino o è veramente un problema? Ragazzini stonati come delle campane. Beh, guardi, ragazzini così stonati ovviamente esistono, per carità, ci sono, perché sappiamo che almeno un 4% della popolazione davvero è totalmente stonata. Però da questo a dire che abbiamo individuato proprio quel bambino con una mutia congenita, cioè con questa alterazione, se vogliamo, della percezione musicale, dobbiamo dimostrarlo. Ecco, perché guardi che molte persone, anche da grandi, dicono: io penso di avere la mutia perché sono totalmente stonato. Poi non risultano positive alle varie scale di valutazione, eccetera, e cioè la propria sensazione di mancanza di talento musicale è di solito, diciamo, è negativa, no? Uno ha veramente una sensazione negativa delle proprie abilità musicali, quindi bisogna valutare, prima di dire è totalmente stonato, andrebbe visto questo bambino e visto se davvero non è un fatto invece appunto magari ambientale, magari ecco di situazione. Spesso devo dire i cori musicali delle scuole scelgono delle tonalità che non sono adatte alla gamma della tonalità del bambino e quindi quindi in quella tonalità il bambino può risultare non adatto a quello, ma nel senso che va fuori perché la sua gamma non è ancora sviluppata. Quindi ci sono molti fattori che concorrono. In questo caso, come renderlo intonato sarebbe vedere se davvero ha una capacità di espressione musicale all'interno della sua scala di appartenenza e se sa riconoscere i toni oppure no, e questo già significa che può migliorare moltissimo. Ecco, perché queste cose. Dottoressa Lopez, lei mi corregga se sbaglio, lo chiedo anche ad Alberto Pellai, tante volte noi genitori facciamo nascere dei complessi ai nostri figli buttandoli addosso i nostri, mi spiego che sembra un pensiero contorto, ad esempio tu sei stonato come tuo papà. Tu non hai orecchio proprio come non aveva il nonno Luigi, no? Ecco, sì, certo. E noi siamo lì atterriti, diciamo, vabbè, se lo dice la mamma o se lo dice il papà, ha ragione. Alberto, ecco, certo. Alberto, è possibile questo? Sì, c'è proprio un meccanismo anche nella relazione educativa che è un po' quello della profezia che si autoavvera. Cioè noi molto dell'impatto educativo che abbiamo sui nostri figli lo costruiamo attraverso quello che diciamo loro. Quindi moltissime ricerche spiegano che se noi continuiamo a dare messaggi negativi, se noi diamo prefigurazioni negative a chi sta crescendo, lui si adatterà a quella prefigurazione, guarda caso arriverà a non essere all'altezza del compito proprio perché si adatta l'aspettativa, la cattiva aspettativa che noi gli abbiamo proposto. Stai parlando da tecnico, Alberto. Direi che si può parlare anche da genitore, quando un genitore dice al proprio figlio sei un ignorante, sei un idiota, vai male a scuola, vai sempre male, non fa altro che rinforzare non una possibilità di cambiamento, ma un modo di stare proprio in quella situazione di difficoltà. A proposito di ricerche che citava Alberto Pellai, mi ha fatto venire in mente, ci sono delle ricerche che dicono che facendo ascoltare, no, la musica già al bambino quando è ancora nella pancia della mamma, lo si stimola e quindi molto probabilmente il bambino nascerà con un buon rapporto con la musica, che sappiamo comunque, no, ci regala sempre benessere. Dottoressa Lopez, sicuramente può dare un ambiente più stimolante. Noi sappiamo che gli ambienti in cui si cresce sono necessarie, devono essere stimolanti. Stimolante significa di qualunque tipo di stimolazione, quello musicale ovviamente è una stimolazione sonora complessa, per cui anche molto armonica, consonante, voglio dire, in termini musicali ce n'è di descrizioni che la dipingono perfettamente, ma anche altre stimolazioni, il fatto del toccare, del tatto, insomma di tante cose, stimoli visivi, luci, colori, queste farfalline che girano, no, sulle culle eccetera, sono tutti stimoli. E ambiente stimolante significa poi sviluppo maggiore di intelligenza. Questo si è visto anche con gli animali, per dire, no? Gli animali che vengono continuamente lisciati, leccati dalle loro mamme nelle gabbiette eccetera, hanno poi una per esempio abilità spazio-temporale molto migliore di quelli che invece sono lasciati da soli, per dire. Quindi la mancata stimolazione viene proprio chiamata deprivazione e sarebbe un errore. Da qui a dire che dobbiamo continuamente mettere i bambini vicino a delle sorgenti sonore, per esempio quei giochi con tutte quelle cose già inserite dentro, ecco, di lì, oppure, eccessivo, ecco, oppure che ne so, un continuo tappeto di Mozart tutto il giorno, ecco, questo è sbagliato, perché la stimolazione sta anche nel fatto di variare lo stimolo e quindi non devono essere così, né troppo né troppo poco. Questa casa non è un albergo. Come sono i vostri bambini? Intonati come degli usignoli oppure prendono diverse stecche? Parliamo di questo insieme alla dottoressa Lopez e ad Alberto Pellai per darvi qualche indicazione. Alberto, tu parlavi della profezia che si avvera, no? A dire tanto al bambino non ce la fai, sei stonato come il suo animale, sei una campana, questo sì. Questo solitamente è quello che succede, in parte è un po' quello che sta facendo anche la scuola, direi c'è proprio anche un piccolo problema educativo nella storia che ci racconta la mamma. Io mi immagino Roberto che, considerato stonato, mentre tutti fanno le prove del musical, non ha niente da fare, sta seduto in un angolo, si annoia e soprattutto davvero non vede di poter giocare un ruolo dentro una cosa così importante. Su questo aspetto secondo me è molto importante intervenire sia come genitori che come insegnanti, cioè dobbiamo fare molta attenzione che ogni bambino ha il suo talento. Potrebbe essere che questo Roberto di 8 anni non ha davvero un talento spiccato per il canto. Non lo facciamo solista, però esatto, gli facciamo fare qualcosa. E l'altra cosa è che ci possono essere molti altri ruoli in una recita che possono essere giocati. Mi veniva in mente, dottoressa Lopez, e ridevo perché con noi c'era questo ragazzo che era molto stonato. Io mi ricordo che all'insegnante di musica diceva: ma tu fai finta di cantare, ma non cantare veramente, muovi solo la bocca. E allora, tanto che Alberto Pellai ci diceva che ciascuno ha un ruolo, potrebbe essere anche solamente quello, però ecco, escluderlo assolutamente no. Ci sono tanti modi in cui la maestra della scuola o il coro può intervenire. Magari questi ragazzi possono avere delle buone abilità ritmiche e quindi possono tenere il tempo, gli si dà un tamburo e loro sono responsabili del tempo, se per caso hanno invece buone qualità ritmiche. Oppure insomma possono fare altre cose, muoversi, spesso possono semplicemente muoversi senza il tamburo, magari così non hanno il problema anche di portare fuori tempo il resto del coro. Ma la prima cosa da fare probabilmente è capire se davvero questo bimbo non può seguire queste sequenze, oppure se in quel ruolo particolare non lo può fare, però magari in altri ruoli può, e quindi cambiare semplicemente le parti all'interno del famoso musical. E quindi secondo me il suo posto lo deve trovare, e questo sta all'intelligenza appunto delle persone che organizzano e che fanno in modo che non ci siano bambini esclusi. E però d'altra parte lui ha questo dubbio, a questo punto la sua mamma ha avuto questo dubbio, loro stanno cercando una qualche soluzione e quindi bisognerebbe anche dire a loro cosa bisogna fare. Certo. Quindi per esempio un buon maestro di musica intanto può capire se questo bimbo ha un'estensione vocale, ha una capacità di seguire il ritmo, eccetera, in maniera assolutamente informale, nel senso così come si fanno i test di ammissione ai corsi di musica, facendo sentire delle note, sentendo se una nota è più alta o più bassa di un'altra, già questa che viene chiamata appunto riconoscimento dei toni, già è un piccolo test. Sì. Se uno poi vuole fare delle cose più approfondite, esistono delle scale di valutazione proprio per la musia congenita, che sono ancora adesso, non sono pubblicate in italiano, sono ancora a Montreal dove le stanno sviluppando per la fascia dei bambini, ma le hanno già sviluppate per gli adulti e a breve saranno disponibili, insomma, quindi alcuni di noi che si occuperanno di queste cose avranno a disposizione proprio delle scale strutturate, eccetera, laddove il dubbio poi sia un po' più indirizzato verso appunto questo problema della musia. Ma altrimenti appunto ci sono tutti questi accorgimenti intermedi, perché se il bambino invece non ha questo problema ma è appunto un po' stonato, se vogliamo, forse si può rieducare la sua parte musicale. Cioè non si arriva a dire tutti sono intonati, perché effettivamente esiste una parte che non lo è, però neanche appunto bisogna lasciare intentate alcune strade. Certo, perché anche cantare poi in un coro, stare con gli altri ragazzini, è un modo anche per vincere un po' la timidezza, no? Non a caso, quando hai proprio un feeling con alcune persone, i tuoi amici, non so, si va a fare poi un viaggio, è proprio un'espressione dello stare bene insieme e cantare insieme. E devo dire tra l'altro che per esempio il cinema è pieno di storie dove proprio attraverso la musica c'è proprio la riabilitazione, la rieducazione o il recupero di ragazzi che si trovano in situazioni di difficoltà. Penso alla serie di Sister Act, oppure penso, certo, a un film bellissimo con Mary Streep che si chiama La musica del cuore. Ecco, ci dovrebbero, non lo so, anche nei programmi scolastici un pochino di più di tempo dedicato alla musica ci vorrebbe, perché poi viene interrotta alle medie, peccato. E no? Penso un'altra cosa, che anche nella vita proprio nostra, domestica, dove noi siamo sempre dominati da immagini che in qualche modo mettono in secondo piano il valore del suono, bisognerebbe spegnere un po' gli schermi e magari accendere uno stereo, un CD, cosa che piace tantissimo ai bambini. E quello che scopriremo è che la musica attiva non solo la capacità di cantare di un bambino, ma anche la sua capacità di muoversi. È uno straordinario attivatore di movimento e quindi è anche una grande prevenzione nei confronti della sedentarietà o dell'inattività fisica in età evolutiva. Dottoressa Lopez, siamo partiti da un bambino stonato e siamo finiti nel ballo, ma musica e ballo sono assolutamente legate. Certamente. Guardi, sono usciti di recente dei lavori sul fatto che i bambini molto piccoli riescono a seguire il ritmo anche quando sono in braccio ad una mamma che sta seguendo un altro ritmo, perché questo si è fatto in sede sperimentale, la mamma ascoltava una cuffia e quindi seguiva tutt'altro, e il bambino, nonostante questo stimolo, se vogliamo, sensoriale, sentendo la musica, era in grado di mantenere il ritmo musicale, quindi tra l'altro molto piccolo, stiamo parlando di 4 mesi, 6 mesi, quindi i bambini estremamente piccoli hanno innate queste abilità. E allora sarebbe veramente un peccato pensare che questo piccolo Roberto non abbia potuto svilupparle, se per caso le aveva. E questa si chiama impotenza appresa, è un po' come quello che succede con la matematica. Molti bambini pensano di essere negati per la matematica perché imparano che si è negati per la matematica. Lei dice che anche i bambini che sono cresciuti oltre gli ANTA possono in qualche modo rappacificarsi con la matematica, perché, perché io un blocco per la matematica ce l'ho, ma ce l'ha anche Laura Vanossi che lavora in redazione, quindi questa negazione ci accomuna. Dottoressa Lopez, è sempre un piacere fare due chiacchiere con lei. Io la ringrazio. Grazie a lei. Le auguro un buon fine settimana, anche musicale. E se c'è anche un po' di ballo, meglio ancora. Dottoressa meglio Lopez, ancora. Buona giornata. Arrivederci, buongiorno. E adesso analizziamo, Alberto, mi sembra di mettere un po' il camice, analizziamo un altro caso, un altro papà che ci scrive questa un'altra volta. Un'altra area di negazione, ed è proprio un po' in correlazione a quello che stavamo dicendo con la dottoressa Lopez. Qua abbiamo un bambino che apparentemente è negato per uno sport. Ed è una lettera che ci ha scritto. Ecco, qua ti ritrovi. Io avevo proprio un problema specifico legato all'elevazione, per cui non ero bravo in salto in alto, non ero bravo in basket. Soffrivi? Però sono molto bravo nella resistenza invece. Quindi, se mi vuoi mettere a fare una lunga corsa o una maratona, eccomi qua. No, ma nel senso, tu soffrivi? Ma per me è stato duro. Io ho proprio questo ricordo di me che scendevo nella palestra delle mie scuole medie, inferiori e superiori, e ogni volta, prima di entrare, dicevo: scommetto che quest'oggi ci faranno fare salto in alto. Ed era davvero un'ansia. E guarda caso, quando poi era la volta del salto in alto, Pellai. Io non riuscivo a fare nessun tipo di salto. Perché poi ti chiamano sempre. Ma adesso sentiamo che cosa ci racconta il nostro papà. Paolo ha 11 anni, appassionatissimo di computer e videogames, sa tutto di aeroplani e motori, è bravissimo a scuola, dalla battuta brillante. Insomma, con tutti questi pregi, un difetto c'è. Negazione totale per lo sport. Ha provato a fare nuoto, calcio, basket, ma in nessuno ha voluto proseguire. Dopo un anno, al massimo due, dice che non gli interessa più. Così ora, a 11 anni, mentre tutti i suoi amici sono diventati bravi almeno in uno sport, Paolo non partecipa all'attività di alcuna associazione sportiva e sta già provando a pensare a quale sarà lo sport che proverà il prossimo anno. Perché mio figlio, così pieno di talento in tante altre cose, è negato per lo sport? Perché non si appassiona a nulla? C'è modo di recuperarlo? Come si fa? Questo è un problema, soprattutto i papà, se non vedono che il loro bambino risponde allo sport. Mi domandavo, Peter Bescapè, che è un grande sportivo, cosa direbbe se il suo bambino fosse uno tutto, no, tutto lettura e niente sport. Peter Bescapè in regia alla parte tecnica adesso ci assiste, ma ci aiuta a risolvere un po' questo inghippo un esperto, il dottor Carlo Napolitano, medico pediatra e autore di un libro che si intitola Lo sport giusto per il tuo bambino, Sperling Editore. Dottore, benvenuto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Prima di entrare nel merito e capire perché ci sono dei bambini che proprio con lo sport non hanno feeling, diamo un po' delle regole generali, no? Perché per accorgersi che un bambino non ha feeling con lo sport bisogna in qualche modo farglielo provare. Noi genitori solitamente iscriviamo i ragazzini a più corsi, fanno pallavolo, poi fanno nuoto, alcuni inseriscono il tennis. C'è una strategia, un piano per far assaggiare i nostri ragazzi, no? Un po' di sport in modo che poi possano scegliere? Cioè, la cosa importante è che lo sport sia gradito dal bambino, anche perché inizialmente il bambino vive lo sport soprattutto come un gioco ed è giusto che lui possa sperimentarne parecchi. Chiaramente una strategia può essere quella magari di fargli provare uno sport alla volta, cercando di metterlo nelle migliori condizioni possibili per l'apprendimento, quindi affidandolo sempre a istruttori, mai cercare di fare, diciamo, da sé, dando i primi rudimenti di uno sport. È bene che lo sport venga iniziato sotto la guida di persone esperte e competenti, e naturalmente questo tipo di scelta di sport da proporre deve essere poi compatibile con l'età e con la costituzione. Certo. Esistono sport che non si possono cominciare prima di una certa fascia d'età, altri in cui cominciando tardi si è praticamente già tagliati fuori e di conseguenza significherebbe creare delle difficoltà al bambino o al ragazzino dovute proprio al fatto che lui ormai ha raggiunto un'età in cui non può cominciare a muoversi in quell'ambito di certo. scuola. L'altra cosa importante è che i genitori diano sì un grande sostegno, incoraggiando, cercando di, come dire, saper gestire l'errore, eccetera, ma che non creino la pressione. Bravo dottore, questo sicuramente è, ma noi dobbiamo affrontare, questo abbiamo dato delle regole generali, dobbiamo affrontare invece un problema che è quello, il ragazzino che sembra proprio inadatto, non sembra essere capace, disinteressato allo sport. La storia del nostro Paolo apparentemente è una di queste storie, cioè c'è un ragazzo che è davvero molto pieno di talento, ricco di talento per cose che hanno a che fare con la mente, con le competenze virtuali, elettroniche, invece sembra molto negato per l'attività motoria. Esistono bambini che nascono negati per l'attività sportiva? Questa casa non è un albergo. Siamo tornati insieme in studio, insieme a me Alberto Pellai, medico ricercatore all'Università di Milano, e in linea abbiamo il dottor Carlo Napolitano, medico pediatra, autore di Lo sport giusto per il tuo bambino, Sperling editore, ci aiuta a rispondere a un ascoltatore che ci ha scritto per chiederci un aiuto. Il suo bambino è negato per lo sport, può capitare, ma dato che lo sport è socializzante, lo sport è assolutamente importante per lo sviluppo del bambino, per la nostra salute, tocca in qualche modo trovare il modo per farlo diventare amico dello sport. Dottor Napolitano. Diciamo che è possibile proporre una cinquantina di attività diverse, quindi in un menù così vario io credo che sia veramente impossibile non trovare qualcosa nei confronti del quale il bambino sia comunque sempre negato. E tra l'altro l'etichetta di negato secondo me già è un po' una sorta di condanna che lo può mettere in condizioni anche psicologiche negative, certo. nel tentativo di fare qualcosa, no? Dal punto di vista sportivo. Teniamo presente che per esempio l'attività motoria già soltanto della bicicletta, non si deve vedere lo sport necessariamente come in questo caso un coinvolgimento in una squadra, in un team. No, ma certo, non stiamo dicendo per esempio quello. La bicicletta credo che a un ragazzino di 11 anni possa piacere perché dà un senso di libertà, dà un senso di autonomia, è in fondo il primo mezzo di trasporto autogestito che può avere a disposizione un ragazzino, in qualche maniera lo può preparare anche in futuro poi a diventare un buon guidatore di veicoli, sì, o di motoveicoli, quindi, e quindi sotto attenta guida, sotto naturalmente determinati criteri di prudenza, è una cosa che difficilmente trova delle resistenze nella pratica. Alberto. Poi, per esempio, si potrebbe provare a fargli provare il brivido della canoa. La canoa è uno sport in cui si tratta chiaramente di vincere quel minimo di titubanza o di timore che ci può essere nei confronti dell'acqua, del galleggiamento, ma con il giubbino di salvataggio e di conseguenza tutti quelli che sono i canoni di sicurezza adeguati, ecco che anche questa può essere un'esperienza stimolante. Poi ci sono sport più facili, sì, proprio, in cui si vede in fretta il risultato e il ragazzino viene stimolato a farlo dal fatto che vede in fretta qualcosa di concreto ottenuto. Mi dica ad esempio? Per esempio al tiro con l'arco, che è uno sport molto ecologico, semplice. Quindi, mi scusi dottore se la interrompo, ma dietro questi suggerimenti, che sono di solito noi genitori pensiamo a degli sport più classici, dietro questi suggerimenti, lei ha parlato di canoa, ha parlato con tiro dell'arco, c'è, Alberto, aiutami a vedere se sto sbagliando, anche un modo diverso per fare prendere l'attività. Cioè, là dove c'è il ragazzino bloccato, fargli provare emozioni diverse, magari non il confronto con i suoi compagni, ma fargli vedere che si diverte con qualche cosa di originale che magari gli altri suoi compagni non fanno, ma che dà risultati subito, può in qualche modo rincuorarlo e fargli rompere il ghiaccio. Sì, io direi che proprio anche in base alla, non solo alla costituzione fisica, ma anche alla struttura psicologica del bambino, un genitore può proprio supportare l'ingresso nell'attività sportiva del proprio figlio, perché un bambino timido avrebbe bisogno di uno sport di squadra, ma se noi subito lo buttiamo in uno sport di squadra probabilmente lo affaticheremo molto. Un'ultima domanda considerato che lei è anche pediatra, sto pensando a quei genitori che hanno bambini sovrappeso o francamente obesi, che sono quelli che avrebbero più bisogno di attività sportiva, ma spesso sono quelli anche che invece si sentono negati e l'abbandonano molto più precocemente rispetto agli altri. Che consigli può dare a questi genitori per stimolare, per esempio, il tiro con l'arco che diceva prima? È uno di quegli sport che dovremmo consigliare al genitore di un bambino sovrappeso? Diciamo che nel tiro con l'arco c'è la componente di facilità di ottenimento del risultato che fa da grande incentivo alla pratica. Per un bambino sovrappeso c'è da tenere conto proprio di quello che è il rispetto delle problematiche della colonna vertebrale, per cui evitare tutti gli sport che possono comportare dei contraccolpi, dei carichi sulla colonna ulteriori, perché già il bambino ha un carico sulla colonna da sopportare quotidianamente superiore a quanto la natura avrebbe previsto per essa, e di conseguenza possono essere utili per esempio gli sport praticati in acqua, perché in acqua c'è uno scarico del peso legato al galleggiamento. Ecco, perché lei ci ha parlato di tiro con l'arco e di canoa, sono un po' difficili, no, per le famiglie a raggiungere. Sono divertenti, cioè dietro c'è un invito a fare qualche cosa di diverso, però per una famiglia, papà e mamma che lavorano, andare a cercarsi, no? È possibile soprattutto in una grande città magari. Ecco, comunque l'idea è di variare. Mi è piaciuto il dottor Napolitano perché ha detto il menù è talmente vario che sicuramente riusciamo in qualche modo a trovare l'attività che piace di più al nostro ragazzo. Esattamente, esattamente. Un altro tipo di consiglio che possiamo dare a chi è sovrappeso, e si ritorna a quello che abbiamo detto prima, è la bicicletta, perché la bicicletta dà stimoli a muoversi che sono in qualche maniera in apparentemente uno sport. Molti ragazzini sovrappeso hanno la tendenza a non voler fare sport di squadra perché temono il confronto con gli altri. Certo. Nel ciclismo possono fare il ciclismo, diciamo, turistico, autogestito, no? In maniera da potersi dedicare a questa pratica. Tra l'altro, il vantaggio del ciclismo è che non comporta di solito pochi minuti di attività, ma di solito almeno un periodo di una mezz'ora, di un'ora mediamente, no? E ricordiamoci che noi bruciamo i grassi solo dopo 20 minuti di attività. I primi 20 minuti di uno sforzo noi li diciamo alimentiamo solo con gli zuccheri, quindi per un bambino che deve perdere peso fare sport per un periodo più lungo di 20 minuti è meglio. Grazie dottor Napolitano per essere stato con noi, per averci dato dei consigli, quindi tanti modi per far pace, no? Incuriosire i nostri bambini. Grazie dottore. Certo. Vi saluto, arrivederci, buongiorno. Ultimo caso per la trasmissione di oggi, musica, sport. Ci ha scritto una mamma che sembra molto preoccupata per Roberta, la sua figlia 15enne che frequenta il liceo classico e ha una vera negazione per le lingue straniere. Sentiamo la sua storia. Mia figlia Roberta è bravissima a scuola, tutti ottimi voti, riesce senza fatica in tutte le materie, greco e latino incluse. Invece con l'inglese non funziona in nessun modo. Premettiamo che la sua insegnante di inglese è lo spauracchio dell'intera scuola. Tutti fanno fatica, ma la maggioranza riesce ad ogni modo ad arrivare alla sufficienza, anche se risicata. Mia figlia invece è partita col 4 e lì si è fermata. Sembra che abbia fatto l'abbonamento. Parlando con la sua docente, mi sembra di sentirmi raccontare un caso senza speranza. Mia figlia è negata per lo studio delle lingue straniere e, secondo la sua professoressa, si trascinerà al debito di inglese fino alla quinta superiore. Ma davvero può esistere una negazione così spiccata per lo studio della lingua straniera? Servirebbe qualcosa se io la mandassi in Inghilterra per una vacanza studio? Mia figlia sembra essersi ormai arresa all'evidenza che non imparerà mai l'inglese e dice che non ci vuole neanche più provare. Al di là del debito scolastico, a me preoccupa il fatto che le sia precluso l'apprendimento di una materia tanto importante per il suo futuro. Si può fare qualcosa per aiutarla? Chissà quanti genitori si ritrovano nella situazione della mamma di Roberta. Ci sono proprio delle materie che sono scogli. Le lingue però, ormai si dice, siamo in Europa, non possiamo non sapere soprattutto l'inglese, poi c'è questa difficoltà. Altri invece ce l'hanno nei confronti del latino e del greco, ma per aiutare la mamma di Roberta e soprattutto tutte le mamme e i papà che si trovano nella stessa situazione abbiamo in linea con noi la professoressa Giuliana Giusti, professore associato di glottologia e linguistica del corso di laurea di lingue e scienze del linguaggio presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Professoressa, benvenuta e grazie. Buongiorno. Allora, professoressa, il caso che abbiamo appena sentito, il caso di Roberta, è un caso insomma un po' particolare, ma sicuramente diffuso, no? C'è una sorta di blocco da parte magari del ragazzo nei confronti di una materia. C'è una difficoltà, magari c'è l'insuccesso, non ti fa venire voglia di studiare, insomma, uh-huh. Sì, da che certo. parte si può iniziare ad affrontare la situazione? Ma il caso di Roberta mi sembra molto interessante, perché in realtà io penso che se una persona è molto brava in latino e greco, dovrebbe, che sono due lingue, e fra l'altro due lingue diciamo straniere, soprattutto il greco è una lingua straniera, il latino è una versione precedente all'italiano, ma per noi è una lingua straniera molto difficile, perché l'italiano si è semplificato molto nel frattempo, non dovrebbe non essere portata allo studio delle lingue. E quindi penso che sia proprio una questione, da un lato, di interesse e di interesse che forse è stato abbandonato per motivi affettivi, appunto, forse non ha avuto né prima né ora dei docenti che hanno dato un'impostazione corretta all'insegnamento, un'impostazione corretta per la ragazza, per Roberta. Quindi è possibile, secondo lei, che il modo in cui un insegnante avvicina il proprio alunno alla sua specifica materia sia così significativamente invalidante, cioè tanto da rendere questa ragazza brava in tutto, assolutamente incapace nell'apprendimento dell'inglese? Beh, questo è assodato, insomma, nella didattica di tutte le discipline c'è un aspetto psicologico affettivo importantissimo. Il professore fa la differenza, insomma. Sì, ma non solo il professore, il maestro, certo. Cioè molto spesso l'approccio alla disciplina, per esempio ora di recente l'approccio alle lingue straniere c'è, cioè, fin dalla scuola materna addirittura, o senz'altro la scuola elementare, quindi adesso al di là, a volte nella scuola superiore arrivano gli studenti, immagino, con delle propensioni o delle non propensioni già spiccate dovute a una storia precedente. Però io penso anche che Roberta, in particolare, se è brava in greco e in latino, in realtà può essere molto aiutata da un approccio un po' nuovo allo studio delle lingue, che è un approccio più linguistico. Io sono una linguista e penso che in realtà le scoperte scientifiche recenti della linguistica possano aiutare moltissimo anche nell'apprendimento pratico delle lingue, perché conoscendo tanti aspetti di tante lingue diverse, in realtà con la comparazione si può scoprire di sapere già moltissimo della lingua nuova che si impara e quindi non doverlo neanche studiare in realtà. Professoressa Giusti, quest'idea mi alluzza, perché la trasferirò naturalmente alle mie ragazze. Questa casa non è un albergo. Vostro figlio è, non dico proprio negato, ma diciamo ha un po' di difficoltà nei confronti delle lingue. Ne stiamo parlando oggi, a questa casa non è un albergo, qui in studio con me Alberto Pellai, in linea la professoressa Giuliana Giusti, professore associato di glottologia e linguistica del corso di laurea in lingue e scienze del linguaggio all'Università Ca' Foscari di Venezia. Professoressa, prima delle informazioni sul traffico, lei ci ha detto: sono una linguista e quindi so che c'è un altro modo per affrontare le lingue, che può dare soddisfazione e rendere lo studio meno faticoso. E io e Alberto naturalmente vorremmo capire il segreto, il modo. Una cosa sono le discipline come la matematica, la fisica, le scienze, sono delle discipline da studiare, da acquisire in qualche modo, anche mnemonicamente, capire come funzionano in un certo modo. Ma il linguaggio è una capacità che abbiamo tutti. Tutti parliamo una lingua, in situazioni normali i bambini e le bambine tra gli 0 e i 4 anni imparano perfettamente la loro lingua madre, anzi le bambine un po' più velocemente, son più brave le bambine, quindi per le lingue, infatti noi all'università troviamo che molto spesso le lingue attirano di più le ragazze che i ragazzi. Sì. Allora, quello che secondo me è importante quando andiamo a studiare una lingua straniera è cercare il più possibile di ricreare questi meccanismi inconsci, perché a un bambino fino a 4 anni non gli si può spiegare come funziona la lingua che deve imparare, la impara e basta. E la impara molto naturalmente, ascoltando anche da dati molto diversi, cioè ogni bambino incontrerà frasi diverse in quei 4 anni, anche incontrerà persone diverse, a volte straniere, a volte di regioni diverse, e invece imparerà quella varietà dialettale o regionale, o insomma quella varietà. Sì, certo, ognuno un po' nell'ambiente in cui è calato, esatto, prende gli stimoli. E non è necessariamente la varietà dei genitori, ma la varietà dell'ambiente, sì, delle persone con cui sta di più, con cui si riconosce, certo, di più. Anche dei suoi compagnetti della scuola materna. Per esempio, io sono marchigiana, mio figlio è nato a Venezia e ha un accento veneziano e parla anche un dialetto veneziano che io non potrei parlare mai, per esempio. Che no? Carino, però, è fortunato. Il veneziano è bellissimo. Certo, certo. Un po' di invidia ce la fa. Comunque, quello che è interessante appunto è che il linguaggio è un'abilità mentale che noi acquisiamo e utilizziamo in modo molto inconscio. Sì. Allora, quando si impara una lingua straniera è chiaro che non possiamo impararla allo stesso modo perché non abbiamo la stessa quantità di tempo, no? Che abbiamo nell'insegnare una lingua straniera che non invece una lingua naturale, cioè l'ideale sarebbe trasportare il bambino o tenere il bambino 10 ore al giorno con una persona che parla l'inglese o un'altra lingua straniera, ma ovviamente questo non è possibile. Non è possibile, e non allora? Si può fare. E allora, secondo me, se una buona analisi linguistica ci fa vedere quali sono le caratteristiche comuni tra le 2, 3, 4, 5 lingue che sappiamo, perché tutti noi siamo almeno bilingui, perché diciamo che soprattutto chi fa una scuola superiore ha già un buon italiano, ma senz'altro conoscerà la varietà dialettale della sua regione. Quindi senz'altro tutti noi sappiamo almeno 2 lingue, poi si fanno latino e greco, sì, e sono altre 2. Sì. Quindi abbiamo una conoscenza, si dice metacognitiva, cioè abbiamo una conoscenza di come funziona il nostro sistema diciamo il nostro sistema linguistico inconscio. Sì. Se riusciamo a mettere in chiaro che ci sono delle proprietà identiche, sì, a questo punto mettiamo il discente, chi impara, nella posizione di grande tranquillità, no? Lui sa già che un sacco di cose le sa già, non le deve neanche imparare e può. E questo piace molto, da tranquillità. Secondo me sì, può e non solo da tranquillità, ma può focalizzare tutti gli sforzi mnemonici, anche di esercitazione, di meccanizzazione. Sì. Mi fa un esempio rapido. Così, sì, ecco, allora esempio... un esempio rapido è che mi piace molto, sì, io faccio spesso quando presento questo nuovo modo di insegnare la grammatica, perché in fondo è la grammatica, ma la grammatica è una parola che fa paura, che è spettro di lezioni noiosissime, sì, no? Invece secondo me la grammatica è molto divertente. Perché ha trovato, come dire, la quadra, no? Ha trovato un modo per renderla divertente. Allora, facciamo un esempio. Un esempio tipico della differenza tra italiano e inglese è dove mettiamo l'avverbio di frequenza in inglese. In inglese, in italiano dico io guardo sempre la televisione, sì, in inglese dico I always watch TV, cioè io sempre guardo la televisione. Ecco, quindi watch, guardo, però il sempre deve seguire in italiano e deve precedere in inglese. Questo è molto difficile da imparare, molto difficile da controllare. Sì. Se lo presentiamo in questo modo, spesso i libri lo presentano così, cioè c'è una diversità, bisogna impararlo, sì, punto. Questo crea la sensazione che l'inglese e l'italiano sono incommensurabilmente diversi. Invece, se partiamo da un'altra frase che è un pochino più complessa, ma fa vedere che in realtà non è per niente diverso l'italiano dall'inglese. Se io uso un present perfect, un passato prossimo, sì, il sempre sarà tra l'ausiliare e il verbo. Io ho sempre guardato la televisione o I have always watched TV. In questo caso l'italiano e l'inglese sono identici. E quindi capire questi piccoli trucchetti, lei dice... Basterebbe dire che in italiano il verbo guarda, quando non ha un ausiliare, sta al posto dell'ausiliare, cioè sta alla sinistra dell'avverbio, mentre in inglese il verbo rimane al suo posto, se non ha l'ausiliare non va a spostarsi al posto dell'ausiliare. Abbiamo fatto, grazie alla professoressa Giusti, una piccola lezione di inglese, ma dietro questa lezione c'è un nuovo modo di pensare alla lingua straniera, probabilmente c'è anche un nuovo modo di insegnarla e c'è probabilmente una diversa formazione anche del docente di lingua straniera nella scuola superiore. Proviamo a fare anche a dare una proposta ancora più concreta, cioè molti pensano che se sei negato per le lingue ti immergi nella lingua straniera che non sai e parti per l'estero per una vacanza studio. Può essere una soluzione per Roberta che è così negata per l'inglese? L'immersione vera va fatta prima di un certo periodo che Roberta, se fa la scuola superiore, sta superando. Sì. Immersione vera vorrebbe dire passare un anno da un'altra parte, questo si fa spesso, si può fare nella scuola superiore, ci sono scambi internazionali in cui si va a passare un anno intero in un'altra famiglia, in America, da un'altra parte, non sempre in paesi di lingua inglese. Quello senz'altro è la vera immersione. Le vacanze di tre settimane non sono un'immersione, soprattutto se si passano con il proprio gruppo di amici italiani, con il gruppo organizzato. Purtroppo, professoressa Giusti, lei ci dice quello che noi genitori non vorremmo sentirci dire. È molto più economico quello che vi dico. Sì, perché mandarli in Inghilterra o insomma imparare l'inglese 2-3 settimane, noi genitori ci sentiamo un po' tranquilli, anche perché vanno con degli italiani, non si sa mai, cuore di mamma, e alla fine dobbiamo però aspettarci che l'inglese non è che tornano, che sono degli inglesini nati, no. Ne sanno quasi, cioè magari si saranno divertiti molto. Esatto, però. Allora può aiutare moltissimo dal punto di vista affettivo culturale, se si sono divertiti tanto forse vorranno tornare in futuro da soli, vorranno in futuro andare a frequentare una scuola per stranieri da soli là o andare a lavorare, ma diciamo che non avranno avuto senz'altro occasione di imparare con gli inglesi. Noi, guardi professoressa, suggeriremo ai nostri ragazzi che sono ostinatamente cocciuti nell'apprendimento dell'inglese questo suo nuovo modo, no, di leggere la grammatica. Speriamo di convincerli. Bisogna convincere di più gli insegnanti d'inglese, perché chiaramente è un modo che richiede una certa competenza tecnica iniziale. Immagino. Della divulgazione. Professoressa, la ringrazio per essere stata con noi, buon lavoro e buona Venezia. Grazie. Arrivederci. Va bene Alberto, allora per oggi è tutto, questa casa non è un albergo, va in vacanza, torna a settembre, ma noi continueremo a vederci, ad ascoltarci, entri in essere benessere per questo agosto con tanti appuntamenti. Ci verrò con piacere. Allora Alberto Pellai è ufficialmente invitato, intanto buon sabato da Nicoletta Carbone ed Alberto Pellai.